segrete, le paure dentro me, senza cercare più certezze nei perché. Lungo la strada, tracce mie non trovo più, mi sento solo, sto precipitando giù. Ed ogni volta che cerco conforto in te, vorrei non pentirmi, non riesco a trovarti, vorrei non cercarti, sei sempre dentro me. Esco dal sogno ma non approdo alla realtà, alla deriva della razionalità. Ed ogni volta che cerco di parlare in te, vorrei non pentirmi, ma non riesco a capirti, non vorrei più trovarti, ma sei sempre dentro me. Sei sempre dentro me. Sempre dentro me.